con le più giovani oggi? Ma no, per creare una distanza, per certi versi una distanza c'è, sono convinta però che un po' me lo confermano i ragazzi, le ragazze che sono scese in piazza in questi giorni e che domani racconteranno le loro vite, le loro storie a voi, sono convinta che questa distanza può essere colmata, senza dubbio. Le esperienze sono totalmente diverse. Io sono cresciuta in un'epoca che era di scuola di massa, in cui l'accesso all'università era quasi scontato, no? E per certi versi per me era assolutamente chiaro che la scuola e l'università sarebbero state un mezzo di crescita, un mezzo di emancipazione, no? Quindi facevo quella scelta sulla spinta di una passione grande, che però non era solo una passione scientifica, era anche una passione politica, sociale per certi versi. Volevo fare il medico delle donne, per me il futuro era incerto, ma io avevo una certezza di realizzazione personale e collettiva. Secondo me oggi per le ragazze tutto è molto più sfumato, se è vero che tutto sembra ormai conquistato, ci sono più donne che insegnano all'università, ci sono donne ministro, ma tutto, ripeto, è meno chiaro, il futuro è più incerto, le prospettive sono meno sicure, per cui forse proprio per questo chi fa questa scelta, la scelta di uno studio universitario, la fa sulla base di una passione. Io oggi all'università vedo tante ragazze brave e appassionate, forse quello che manca è una prospettiva più ampia, fare il medico sarà un'altra cosa rispetto a quello studio che fanno nell'università, richiederà di affinare qualità umane, capacità di ascoltare, di mettersi in sintonia con l'altro, per esempio di non giudicare, no? E questo in questo senso io penso di essere stata privilegiata rispetto alle ragazze di oggi, perché quell'esperienza di cui parlo nel libro, dei collettivi delle studentesse, mi ha educato al pensiero della differenza, mi ha insegnato che la vita, le esperienze individuali potevano in realtà diventare pensiero, agire politico e potevano in qualche maniera trasformare la società. Ed è per questo che appunto lei li definisce anni felici, insomma, da questo punto di vista. Ma veniamo al libro, Anna Pompili, sì. Contraccezione. Ecco, oggi c'è naturalmente una grande diffusione di informazioni con sistemi di comunicazione che negli anni 70 non esistevano e che erano molto più elitari di quanto non sia oggi, no? Ma l'informazione su come è fatto il corpo della donna da parte delle donne, la scelta di un contraccettivo, la scelta di una gravidanza, oggi è più informata rispetto a quegli anni, oppure il motivo per cui avete scritto questo libro è perché pensate che questo non sia così? In realtà non è così, lo dicono i dati, perché se da una parte nelle scuole si fa educazione sessuale e d'altra parte le informazioni si possono trarre da internet molto facilmente, di fatto noi vediamo che solo il 16% delle donne italiane utilizza la pillola, vediamo che il metodo più utilizzato, il metodo contraccettivo più utilizzato è il coito interrotto. Nella mia pratica clinica quotidiana io vedo che c'è una disinformazione enorme e in questo c'è una grave colpa anche dei mezzi di comunicazione di massa che partecipano a questa crociata di disinformazione, a mio avviso. Quindi insomma l'idea di questo libro, e tra l'altro sono le 11:28, sì, dobbiamo chiudere, sì, la puntata di oggi, nasce proprio anche da questo. Tra l'altro io dico solo questo, Anna Pompili, e poi magari torneremo nei prossimi giorni a parlare di contraccezione. La prima cosa che voi dite in questo libro è che non esiste un contraccettivo ideale, che quindi la conoscenza e la condivisione del sapere medico diventa importante per la donna che deve prendere una decisione e fare una scelta. Io ringrazio Anna Pompili, che insieme a Carlo Flamini è autrice del libro Contraccezione, uscito per i tipi dell'Asino d'Oro. 11:28 minuti e quasi 50 secondi, il nostro appuntamento è per domani, speciale 8%, 100 anni di 8 marzo, ma ora Radio 3 continua naturalmente la sua programmazione, prima con le previsioni meteorologiche e poi con Radio 3 Mondo. Grazie da Rossella Panarese.